E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati, prima puntata in diretta di questo 2013 per Si può fare, cronache da un paese migliore, le buone notizie e le nuove tendenze che ci salveranno, diciamo noi, e vogliamo anche cominciare a celebrare questi primi 12 mesi di programma. Andate sul sito, alla pagina del programma, e troverete le istruzioni per partecipare a un concorsone. Insomma, vi chiediamo di votare le storie migliori, quelle che avete preferito durante quest'anno, e poi si vincono anche dei premi, insomma, saremo più precisi strada facendo. Intanto potete già andare sul sito e potete cominciare a partecipare. Si interviene anche in diretta, ve llo ricordo, nella puntata del sabato 800 24 00 24 con le vostre buone notizie, anche con i commenti alle notizie che vi proponiamo noi. Dopo il caso Santoro, il PDL torna a sperare. Oggi sul Corriere della Sera è quello che titola il quotidiano milanese. Vi chiediamo: è una buona notizia? No, ma non il fatto che il PDL torna a sperare, questo ci fa piacere per loro. Il fatto che la campagna elettorale, dopo queste presenze di Berlusconi in televisione, si è di nuovo incamminata sul referendum a favore di Berlusconi o contro Berlusconi, sul suo carisma, sulle sue battute, sulla sua capacità di convincere. Forse non sarebbe meglio invece che la campagna elettorale, vi chiediamo all'800 24 00 24, fosse basata sui contenuti o sui problemi concreti? Oppure, insomma, una campagna elettorale dove si parla di proposte. E dagli applausi avete capito da che parte stiamo. 800 24 00 24. Vi chiediamo anche quello che avete visto l'altra sera da Santoro. Vi è piaciuto? Che cos'era? Uno spettacolo di intrattenimento o un contenitore di informazione politica? Più tardi ci sarà anche un ospite a commentare questo. 800 24 00 24. Questo è l'anno, tra l'altro, del cittadino europeo. Potrebbe essere l'occasione per fare nel 2013 un'Europa migliore. Anche di questo parleremo. 800 24 00 24. Adesso qualche notizia della settimana. Cominciamo con una segnalazione che viene dall'Emilia-Romagna. Dopo il terremoto si cercano 500 volontari. Il bando apre il 15 gennaio, martedì prossimo. Apre il bando straordinario nazionale di servizio civile a favore delle zone colpite dal terremoto. Resterà aperto fino al 30 gennaio. Il risultato di un protocollo firmato tra il Ministero della Cooperazione e la Regione Emilia-Romagna. Il bando permetterà a 54 comuni colpiti dal terremoto nelle province di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ferrara, ma anche altri in Lombardia e Veneto, e di usufruire del lavoro di questi ragazzi che faranno domanda per svolgere il servizio civile. È una bella occasione, partecipate, c'è tempo fino al 30 gennaio. Un'altra segnalazione viene sempre dall'Emilia Romagna, da Bologna, il pronto soccorso per le coppie separate. Lo sportello attivo ogni mercoledì nel quartiere di Santo Stefano fornirà assistenza legale e psicologica in forma gratuita sulle tematiche che riguardano il diritto di famiglia, le separazioni. Ce ne sono sempre di più, spesso anche per ragioni economiche la gente non sa dove sbattere la testa quando succede. Allora ecco il pronto soccorso gratuito per le coppie separate a Bologna. L'ultima segnalazione viene da Genova, un teatro nel carcere per evadere con l'arte. Questo è il titolo, il gioco di parole usato da Repubblica nella cronaca locale di Bologna, di Genova, scusate. Entro qualche mese sarà inaugurata una sala di teatro che conterrà 200 persone, detenuti e pubblico esterno. Una occasione, spiega il direttore del carcere di Marassi, per non far più percepire il carcere come un corpo estraneo alla città. Ricordiamo che ogni volta che i detenuti partecipano a questi progetti di recupero, poi quando escono dal carcere commettono di nuovo reati in forma, in proporzione molto molto molto minore, e questo è una buona notizia, senz'altro. Allora, tra poco anche in diretta con i vostri interventi all'800 24 00 24, adesso invece cominciamo da un caso di cittadinanza attiva in Sicilia. Messina bella, amore, amore tu, Messina bella, gli di figli poi su ca da su giardino grigiele somiglie di felicità. Un giorno signori si mise a creare la terra e il cielo a pure toccau, ma prima mise a riposare dice a Sicilia un mare inventau. Gli scoglieremo un chiaro vestati, l'usura e il fuoco e la gente tocca, canta una cerchi e l'unne ballati, canta insieme la nostra città. Lo sole mio che tu metti la terra. Insomma, avete capito da questa scelta musicale che siamo in Sicilia, siamo a Messina per un caso, dicevamo, di cittadinanza attiva. Se il comune rischia il dissesto, si può tentare di recuperare qualcosa di quello che si è perso economicamente, di individuare anche le responsabilità. È quello che sta cercando di fare con un'azione collettiva la Confconsumatori di Messina, e noi salutiamo Fulvio Capria. Buongiorno Fulvio. Buongiorno, buongiorno. Presidente di Confconsumatori di Messina, un'azione collettiva contro chi volete fare e perché? Ma guardi, io intendo precisare una cosa inizialmente. Noi non questa azione che intendiamo promuovere, non vogliamo sindacare quelle che sono le scelte discrezionali di politica della, diciamo, dell'amministrazione di quella che è appena andata via. Certo, non è una cosa politica, ma è una cosa amministrativa. Se l'amministrazione durante la sua gestione preferisce scegliere di fare una strada piuttosto che una scuola, un ponte piuttosto che un palazzetto dello sport, dico, sono scelte che poi valuteranno, diciamo, i cittadini al momento delle successive elezioni. Però ma qua diciamo c'è un dissesto economico, no? Quanto c'è è il debito? Un dissesto economico, e appunto anche questo è una cifra che sia il commissario straordinario che adesso legge il comune, che la Corte dei Conti ancora non hanno stanno cercando di capire ben quantificati la voragine. Tra 80 e 200 milioni. Tra 80 e 200 milioni. Si parla sempre di cifre notevoli, sì. E noi diciamo invece che ci sono degli atti che, indipendentemente dalla linea politica che un'amministrazione sceglie, non possono essere, diciamo, disattesi, non possono essere omessi. Per esempio? Non sono atti discrezionali, per esempio la riscossione dei tributi. Se il Comune di Messina, come è stato accertato anche dalla relazione che ha fatto la Corte dei Conti, ha un buco di bilancio nel quale compaiono dei crediti che il Comune non può riscuotere perché ormai sono andati in prescrizione, tipo la tassa sui rifiuti, oppure degli affitti relativi a immobili di cui il Comune è proprietario, ma appunto non riscuote gli affitti, quindi anche questi affitti sono, questi, diciamo, crediti sono andati in prescrizione. Cioè sono regali, regali che il Comune ha fatto a qualcuno, però in una situazione di dissesto economico, naturalmente voi dite non è immaginabile che il Comune non riscuota gli affitti, non riscuota la TARSU e cose di questo genere. Non si tratta di scelte di politica amministrativa, qui si tratta di atti dovuti che non sono stati fatti, di centro, di sinistra deve compiere. Ma contro esattamente, mi scusi Capria, contro chi esattamente poi si rivolge questa azione collettiva che state cercando di mettere insieme, prendendo spunti dalla cittadinanza, dai cittadini, da quello che vi arriva? Guardi, noi riteniamo che, diciamo, questo tipo di attività debba essere compiuta dagli uffici del comune, dai dipartimenti, dai vari, diciamo, settori degli uffici tributi e compagnia. Dico, non penso che qua rientri necessariamente, obbligatoriamente, una responsabilità dell'assessore di riferimento, sono atti dovuti. Quindi contro gli uffici, contro i dirigenti degli uffici alla fine, contro il comune in quanto tale, certo. Come ente pubblico. I dirigenti hanno nella loro, diciamo, nel loro contratto anche dei premi di rendimento, dei premi di risultato, e così come questi premi vengono erogati nel momento in cui i dirigenti raggiungono un certo risultato, così andrebbero tolti quando lei dice carico della responsabilità. Certo, quindi certo. Dico, questo buco ha comportato appunto questo in parte questo dissesto, perché chiaramente poi i mancati trasferimenti dallo Stato hanno comportato anche una minore entrata su questo. Però lo sappiamo, è sempre la solita storia, che arrivano i trasferimenti da Roma, si appiana tutto e si riparte creando nuovo debito, è successo appunto, in molte altre città. Quindi giustamente volete intervenire per evitare che tutto questo si ripeta. Senta, un'ultima cosa, come si fa ad aderire se uno è di Messina, sta ascoltando la trasmissione ed è interessato, vuole entrare in questa azione collettiva, perché state cercando di mettere insieme vari pezzi di questa vicenda. Come si fa? Certo, innanzitutto stiamo ancora verificando i dati del bilancio, vedere su quali poste del bilancio noi possiamo operare questa azione. E chi dovesse essere interessato, perché chiaramente l'azione collettiva non può prescindere dalla partecipazione del cittadino, può contattare la nostra associazione qui sulla sede di Messina e quindi mettersi in contatto con noi. Va bene, grazie. Fulvio Capria, presidente, avvocato, prego. Presidente di Confconsumatori a Messina. Avete sentito, l'iniziativa è questa, insomma, un'azione collettiva contro il comune, contro l'ente pubblico in quanto tale, contro gli uffici, insomma, contro chi ha permesso in questi anni lo sperpero di risorse pubbliche, non compiendo atti dovuti, cioè non questioni politiche, ma proprio questioni amministrative. E anche questo si può fare. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. Adesso volevamo andare in Toscana per una iniziativa che sta prendendo piede sempre di più e non solo in Italia, per esempio in Francia. Il pane del giorno prima scontato del 50%, perché insomma sono tempi di crisi, questo si sa. A volte anche solo smaltire il pane vecchio, si può dire, è un costo per questi fornai. E allora ecco l'iniziativa a Grosseto. Luca Galletti, titolare del forno Galletti di Grosseto con il fratello. Buongiorno Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Da qualche tempo avete lanciato questa cosa qua. Prima l'avete chiamato il pane del giorno prima, poi avete anche cambiato nome per dargli una veste anche più accattivante. Come sta andando? Sì, diciamo che sta iniziando ad andare bene. L'iniziativa che abbiamo pensato con l'anno nuovo, con il momento di crisi, ma che non riguarda solo naturalmente il momento di crisi, sta ormai per essere conosciuta un po' ovunque e quindi sta prendendo campo. Come vi è venuta in mente l'idea? Io in parte l'ho spiegato, fra l'altro è una cosa che in Francia sta prendendo piede proprio a livello nazionale, anche in Italia se ne è parlato, ci sono state delle iniziative, vi siete ispirati a quello che avete visto altrove? Sì, ci siamo guardati intorno più che altro e non sapevamo più, anche in base a nuove regole, nuove regolamentazioni, non sapevamo più come smaltire gli avanzi, perché diventava un problema anche darli solo alle Caritas, per esempio, perché diventa comunque un problema di fatturazione, un problema di trasporto, insomma tutta una serie di problemi legislativi che insomma ci creavano problemi per quanto riguardava proprio lo smaltimento. E quindi abbiamo pensato di poter riutilizzare il prodotto, soprattutto nella parte nostra della Toscana, dove comunque facciamo un pane senza sale. Il pane del giorno prima comunque l'abbiamo sempre mangiato, quindi è un pane molto buono anche del giorno prima. Naturalmente lo curiamo e lo teniamo in una situazione per cui quando lo vendiamo il prodotto abbia tutte le caratteristiche organolettiche necessarie per il buon consumo. Senta, voi tra l'altro siete in un quartiere... Il Bronx di Grosseto? Il Bronx di Grosseto, esatto. E quindi un quartiere anche... che quartiere è il vostro? Come si chiama? Barbanella. Barbanella. E chi sono i clienti che acquistano il pane del giorno prima in sconto del 50%? Che tipo di... All'inizio, quando lo chiamavamo ancora il pane del giorno prima, c'era molta titubanza, perché naturalmente la gente... anche solo entrare, se in caso in momenti in cui c'era molte persone nei negozi, così diventava più complicato. Lì abbiamo capito che dovevamo farlo diventare un pane anonimo, inteso che fosse un pane come gli altri. Quindi gli abbiamo cambiato il nome, gli avevamo messo il pane del caro prezzo, e lì la gente ha cominciato, anche solo per assaggio, a consumarlo. Adesso ormai è diventato un punto di riferimento, per cui insomma siamo per ogni negozio una 15-20 kg di questo pane, ma la gente insomma ce n'è di tutti i tipi, dal ragazzo giovane alle persone anziane. Senta, perché insomma anche solo smaltire appunto il pane, come ci diceva, non è una cosa facile. Cioè c'è l'iniziativa anticrisi, ma c'è anche un problema, perché in Italia c'è troppa burocrazia anche per dare il pane vecchio alla Caritas, è così? Esatto, c'è una burocrazia che per quanto riguarda lo smaltimento naturalmente ci vieta alcune situazioni, e quindi non possiamo buttarlo così come vogliamo, ma dovremmo comunque fare un atto di distruzione con dei costi che oggi non sono più sostenibili dalle nostre aziende. Diventa un problema anche appunto darli alle Caritas o a qualche ente benefico. Ci sono problemi di fatturazione, ci sono problemi per il trasporto eventuale, per cui insomma facciamo bene da una parte, ma facciamo male dal punto di vista legislativo, e quindi con un rischio aziendale che è troppo elevato. Comunque insomma non c'è, come voglio dire, vergogna anche da parte delle persone a chiedere il pane che costa meno, no? No, anzi, noi poi insomma voglio dire, i nostri negozi, le commesse sanno che devono prendere questo come un'iniziativa anche scherzosa. Viviamo tutti la stessa situazione, noi vendiamo pane, lo facciamo sul pane, ma se ci guardiamo intorno poi lo fanno un po' tutte le attività commerciali. Siamo in un momento vero di crisi. E quindi ognuno ovviamente si ingegna, esatto, come può. Tra l'altro, esatto, l'ultima cosa che gliela voglio chiedere è proprio sul tipo di pane, no? Perché adesso entriamo anche nel dettaglio. Cioè ci sono ormai dei filoncini, delle baguette che si trovano nei supermercati, che è inimmaginabile arrivare al giorno dopo perché sono pezzi di legno. E invece, esatto, voi fate, cos'è, pane casareccio questo qua? Sì, noi facciamo pane senza sale, senza olio, quindi pane toscano, e per quanto riguarda poi il pane del venduto al caro prezzo, facciamo la pagnotta da chilo, che riesce ad essere mantenuta fragrante, quando la sera insomma gli avanzi le mettiamo tutti insieme in sacchi apposta nelle celle, la mattina poi le ripassiamo al forno. Se sono troppo le aggiungiamo un po' d'olio, insomma le risistemiamo in modo che quando lo mangiamo è sempre gustoso, è molto gustoso e a volte anche più buono il giorno dopo, che esatto, sì, no, per la nostra zona assolutamente sì, per la nostra ed è zona... utile proprio per fare la ribollita in Toscana, tanto per dire uno. L'utilizzo poi è variegato. Va bene, grazie allora per averci raccontato questa iniziativa. Luca Galletti, titolare del forno omonimo a Grosseto, il pane del giorno prima scontato del 50%. Gira il mondo e giro te, mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Bene, questa calda come il pane era dedicata al pane del giorno prima di Grosseto. Abbiamo detto che volevamo parlare anche dell'anno dei cittadini, 2013 anno europeo dei cittadini, un'occasione forse per fare un'Europa meno finanziaria, meno economica, meno a questo punto anche ripudiata dai cittadini europei, per fare un'Europa migliore. Lo chiediamo e speriamo che la risposta sia positiva. Pier Virginio D'Astoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Nella qualità di portavoce dell'Alleanza Italiana per l'anno europeo dei cittadini. Di che cosa stiamo parlando? Di un'iniziativa che nasce da Bruxelles, dalla Commissione europea, che poi viene spalleggiata da questa alleanza, che c'è anche in altri paesi, di associazioni della società civile, per dare un contenuto, una spinta di diritti, di opportunità, di possibilità per tutti. Ho sintetizzato bene? Sì, esatto. Noi siamo convinti che l'Europa non può ridursi all'economia, soprattutto l'Europa non può ridursi all'economia del rigore e dell'austerità. Mm-hmm. L'Europa è anche un'Europa dei diritti. Molti diritti già esistono, sono fissati nel trattato, nella Carta dei diritti, e molti diritti dobbiamo ancora conquistarceli, ed è per questo che questa alleanza, che è nata in Italia ma che esiste anche in tutti gli altri paesi, ha deciso un suo decalogo di proposte e di iniziative da rivolgere alle istituzioni europee e anche ai governi nazionali per chiedere che questi diritti vengano sanciti. Senta, quali sono questi diritti, queste possibilità, queste opportunità che i cittadini europei, insomma, possono andare a cercare nel contesto europeo, andando oltre quelle che sono già le possibilità che ci sono sul piano nazionale? Ci sono i progetti di studio che vengono finanziati, l'Erasmus, c'è la Corte dei diritti umani, per cui se uno subisce un torto può andare. Ci può fare un quadro di queste opportunità su cui voi puntate particolarmente? Ma intanto, come ha detto giustamente lei, ci sono alcuni diritti che già esistono, i diritti per esempio dei progetti che riguardano le regioni, l'Erasmus, i diritti dei consumatori, la parità fra uomo e donna, i diritti per esempio degli immigrati. Ci sono tutta una serie di diritti che già esistono, e poi ci sono dei diritti che sono ancora sulla carta e che devono essere concretizzati, diciamo così, attraverso delle leggi europee che ancora non sono state proposte. E da questo punto di vista il Trattato di Lisbona dà la possibilità a 1 milione di cittadini europei di chiedere alla Commissione di legiferare in una serie di settori in cui l'Unione Europea non ha ancora legiferato. Questa è una cosa importante, perché spesso ci diciamo che l'Europa si occupa troppo di certi temi e poco di altri. A questo punto, certo, però è una proposta di legge, di iniziativa popolare in Europa, non è facile mettere insieme tutta questa gente a livello europeo. Ci vogliono associazioni, consumatori, di cittadinanza, partiti, sindacati. Come si fa a fare una proposta di legge europea, per esempio? Intanto adesso col sistema internet le firme possono essere raccolte anche attraverso internet, il che facilita molto le cose. Esistono già 15 proposte di legge di iniziativa popolare che sono state presentate, annunciate alla Commissione. Le faccio soltanto alcuni esempi. Uno è quello di estendere a tutti gli studenti universitari il progetto Erasmus, un altro è quello del pluralismo dell'informazione, che interessa particolarmente noi italiani. Un terzo è quello del diritto all'acqua, un quarto è quello del diritto all'ambiente. Insomma, esistono una serie di proposte che sono state già annunciate dalla Commissione e per le quali è già cominciata la raccolta delle firme, che devono concludersi entro il 1 novembre di quest'anno, del 2013. E questo è uno strumento che effettivamente dà la possibilità ai cittadini europei di svolgere quella che si chiama democrazia partecipativa. E speriamo, insomma. Noi adesso per il momento ci fermiamo qua. L'anno europeo dei cittadini dura tutto il 2013, avremo modo sicuramente di tornarci e di verificare se si è colmato un po' la distanza tra cittadini ed istituzioni europee. Grazie intanto a Pier Virginio D'Astoli, ci fermiamo per una pausa e torniamo tra pochissimo. 800 24 00 24. Veniteci a cercare naturalmente su Facebook, si può fare /Radio24, potete andare anche sul nostro sito e, come abbiamo detto, partecipare al concorso che inizia in questi giorni, andrà avanti almeno per un mesetto, si vincono anche dei premi, si scelgono, si votano le migliori storie di questi primi 12 mesi di Si può fare, che anche su Twitter Si può fare 24 è in diretta oggi all'800 24 00 24, per sentire anche i vostri commenti. Abbiamo forse qualche ascoltatore doveva sentire. Vediamo se arrivano, perché ci sono. Si tratta solo di prepararli per l'intervento in diretta. Eccolo qua, Nicola che ci chiama dalla provincia di Latina. Buongiorno, sì, buongiorno. Nicola, eccoci qua. Buongiorno. Niente, ascoltavo la sua riflessione, sì, all'inizio in virtù del fatto dello show di Berlusconi con Santoro. Le parla uno che ha sempre votato Berlusconi. Già, siamo un popolo strano, se i sondaggi dicono che lui continua a prendere piede le sue apparizioni. Sì, ma la domanda era, Nicola, è una buona notizia per noi che la campagna elettorale si sposti su questi, sì, temi o no? Gli rispondo in questo modo qua. Se per me è una buona notizia, uno che continua è all'affatico, ne ha avuto sentare, non ha. Nicola, non lo sentiamo più. Io mi dispiace perché stava entrando nel cuore della risposta alla domanda, ma non lo so. Mi sa che non si recupera la telefonata con Nicola. O forse sì, sentiamo Nicola. Io la sento. Ecco, sì, stava dicendo. Le dico, se gli rispondo con una domanda. Se sì, è una buona notizia, me lo dica lei. Se uno mi continua a dire facciamo, e all'atto pratico, quando ha avuto il tempo e le possibilità per poter fare quello che doveva fare, non ha fatto, io non lo so se questa è una buona notizia. Questo qualcuno è Berlusconi? Assolutamente sì, di lui stavamo parlando. Perché in virtù del fatto che lei ha iniziato dicendo Berlusconi, sì, è tornato in televisione, i sondaggi gli danno favore, questa è una buona notizia o meno. Io non lo so, siamo un popolo strano. Se riteniamo questa cosa qui una buona notizia, io sono molto preoccupato per il futuro degli italiani. E glielo dice uno che lo ha sempre votato. Va bene, Nicola, d'altra parte appunto la questione è che io ho posto in questi termini, cioè la spettacolarizzazione della campagna elettorale, la personalizzazione, il referendum. La politica è una cosa seria, ha ragione. Esatto, è una buona notizia o no? E poi, insomma, io penso che la campagna elettorale sarebbe meglio che fosse condotta su temi di contenuto, su proposte, su numeri dell'economia, eccetera, eccetera. Magari più noiosa, chi se ne frega, l'intrattenimento andiamocelo a cercare altrove. E tra l'altro tra poco vi faremo vedere anche come si può soddisfare il gusto del trash. Tra l'altro avremo un ospite per commentare questa cosa qua. Ma sentiamo Alessandra da Genova, buongiorno. Buongiorno caro dottor Maurizi, io sono una fan di Radio 24. Fantastico. Senta, ascolti, io ho seguito l'altra sera l'intervento di Berlusconi e devo dire che la cosa che mi ha più rattristato è stato che, a mio parere, ho visto come una recita, nel senso dove i copioni erano già tutti scritti, ognuno svolgeva la sua parte. Poi, riguardo alla domanda che lei ci fa nello specifico, io dico, ma come si può rallegrarsi di un paese che, come potrei dire, cerca la gratificazione dal giullare di turno che abbiamo ormai conosciuto, sperimentato per un ventennio appunto, e quindi non vedo come si dice trovare le motivazioni di rallegrarsi, se non che noi siamo talmente tutti quanti stressati che abbiamo bisogno di, come si dice, di avere una forma di gratificazione, non so, alcuni la trovano. Va bene, mi sembra chiaro quello che lei sta dicendo. Alessandra, sentiamo un altro ascoltatore al volo e poi risentiamo anche un pezzo di questa trasmissione di cui stiamo parlando. Camillo da Milano. Camillo? Buongiorno. Eccoci qua. Lei su cosa voleva intervenire? Sull'Europa, su Berlusconi, Santoro? No, io volevo dire qualcosa su Berlusconi, sì, e sul paese Italia. Mm-hmm. E sui media, che sono quelli che informano, no? Sì. Allora lei mi dovrebbe dire in quale paese del mondo, ma se non ci fosse stato Berlusconi quella sera da Santoro, ci fosse stato un altro politico di qualsiasi estrazione, sarebbe successo quello che è successo il secondo giorno, e cioè un politico va lì, gli fanno toccare con mano che va in giro dicendo delle sciocchezze, perché sia sull'IMU che l'ha messa Monti, Travaglio gli ha fatto capire che sta raccontando delle bufale, e sia sul discorso dei titoli della Deutsche Bank, la stessa cosa. Mm-hmm. Quindi è un politico che racconta delle balle, dovrebbe crollare immediatamente, sia dai media deve essere attaccato e sia dall'opinione pubblica, e invece questo signore ne esce vincente. Io vorrei una spiegazione logica a questa cosa. Proviamo a dargliela tra un attimo. 800 24 00 24. Lei ha fatto una trasmissione allora, fino a questo momento e poi legge tutto. Una scartofia che le hanno scritto e che non sa manco che cosa contiene. Ma questa è una cosa vergognosa. Vergognosa. No. Lei si dovrebbe vergognare di queste lei cose che fa. Si dovrebbe vergognare. Io non mi alzo e non me ne vado. Guardi, queste sono le solite cose. Ma di quando solite? Lei. Sono ma condanne cosa per dice? Diffamazione. E che cos'è una condanna? Allora è un diffamatore cos'è? Professionista. Perché e uno che ha una condanna qui. Per diffamazione è un diffamatore professionista. 10. Ma Michele. Cosa dice? 10. Allora Sallusti 10. Cos'è? 10. Cos'è? Cos'è? Jack lo squartatore. Ma non dica sciocchezze. E salutiamo Marco Gui, esperto del consumo dei media all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno, benvenuto Marco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, che cosa era questa cosa che abbiamo assistito in televisione? Uno spettacolo, una forma di show, un intrattenimento o un talk show di informazioni sulla campagna elettorale prima di tutto? Perché insomma la domanda sorge spontanea, è sembrato sicuramente di più uno spettacolo che non... Certo, che non una cosa abbastanza sicuramente la trasmissione aveva elementi altissimi di spettacolarità, cioè l'attesa mediatica, l'attesa dell'incontro tra Travaglio e Berlusconi, le varie lettere, i colpi di scena, anche le musiche, il modo stesso in cui le persone parlavano, quindi tutto l'accento era lì. Noi all'Università Bicocca abbiamo fatto delle ricerche per capire l'effetto proprio di questi elementi di spettacolarità estrema, soprattutto la violenza verbale, sul consumo e sulla soddisfazione. Che, dico io facendo un inciso, non c'entrano nulla pro o contro, in questo caso Berlusconi o Santoro, è una questione, una un'analisi che voi portate avanti da tempo, in generale, sull'uso, sì. Volete, consapevole dei media e quindi quando si incrociano momenti di alta spettacolarizzazione, magari basati anche su scontri, tensioni, perché insomma avete sentito questo frammento TV dell'altra sera. Certo. Già solo a sentirlo sale la pressione, sale l'adrenalina. Certo. È vero che si assiste a uno spettacolo interessante. La domanda poi è: questa cosa come ci lascia? Cosa ci lascia dopo? Esatto, ci sono anche degli elementi fisiologici, il battito del cuore, la conducibilità elettrica della pelle che sono stati studiati nella letteratura psicologica, ma quello che abbiamo dimostrato noi è che in questi casi, quando c'è uno scontro verbale, quando ci sono questi elementi di spettacolarità estrema, c'è un consumo che aumenta e infatti in questo caso abbiamo 9 milioni di spettatori e il 33% di share, però poi la soddisfazione misurata dopo diminuisce. Il motivo di questo sta nel fatto che quando lo show finisce resta poco in termini di contenuti, resta poco in termini di informazioni e l'informazione probabilmente era una delle aspettative degli spettatori che non viene soddisfatta, ecco. Quindi in questo caso si può dire che gli interessi dell'emittente sono quello di spettacolarizzare per fare audience, gli interessi del politico altrettanto sono di spettacolarizzare per avere visibilità che poi si traduce in consenso, però non è chiaro in questo dove sta l'interesse pubblico, perché questa diciamo la dimostrazione che la spettacolarità produce anche insoddisfazione, l'abbiamo anche a un livello macro, perché in questi anni noi abbiamo avuto molta attenzione alla spettacolarizzazione del confronto politico e ci troviamo in un momento in cui l'insoddisfazione per la nostra rappresentanza è massima. Quindi diciamo noi l'abbiamo fatto a un livello sperimentale sugli spettatori, però lo vediamo anche a un livello più macro nella nostra società, ecco. Mm. Dall'analisi che avete fatto voi, che cosa emerge a proposito appunto del contrasto tra ascolti e livelli di soddisfazione? Cioè si fanno molti ascolti, però poi si rimane anche turbati forse da momenti televisivi come questi. Ecco, quindi quale potrebbe essere la strada invece da seguire per un consumo, come voi auspicate, più consapevole dei media? Ma allora si possono dire due cose. Dal punto di vista individuale bisogna essere coscienti che trasmissioni come queste spostano tutta l'attenzione sulle componenti teatrali sceniche ed è per questo forse l'ascoltatore di prima parlava della contraddizione del contenuto. Ecco, in trasmissioni di questo genere quelle vengono in secondo piano, vengono messe in secondo piano perché l'attesa è sulla performance diciamo dialettica dei diversi attori. non tanto sui contenuti o sui valori che il politico porta avanti. Quindi essere consapevoli di questo ci fa anche scegliere una dieta di informazione politica che sia varia. Non dobbiamo per forza escludere trasmissioni come questa, però dobbiamo metterle insieme a stimoli che siano molto più basati su che, il programma che questo politico porta avanti, i valori che questo politico porta avanti, perché altrimenti spostiamo tutta l'attenzione su una delle componenti che, per quanto ineliminabili, perché c'è sempre stata una componente di teatralità, se portata all'estremo così mette in secondo piano tutto il resto. Ad un livello invece di sistema dei media, a mio parere si potrebbe pensare, per dei professionisti che hanno a cuore l'interesse pubblico, a trasmissioni, formati che mettano insieme meglio i due aspetti, cioè un po' di spettacolarità ci vuole anche per attirare, perché altrimenti vanno a vedere i programmi di politica solo quelli che strettamente sono interessati e sono una fascia piccola della popolazione, quindi un pochino di spettacolarità ci vuole. Bisogna metterla insieme, anche in modi intelligenti e nuovi, all'attenzione ai contenuti, al cosiddetto fact-checking, cioè vedere se le cose che si dicono sono vere o meno, un confronto che non sia gridato, altrimenti vengono appunto in primo piano tutti gli elementi che abbiamo detto prima e l'insoddisfazione cresce. Ed è la strada che mi sembra questa qua che sta seguendo Sky. Poi gli ascolti diranno se sono soddisfatti da questa strada, però mi pare che non c'è solo un problema di ascolti. Quando si parla per esempio di campagna elettorale o di politica, ci dovrebbe essere, c'è sicuramente anche una valutazione sull'interesse generale, sull'interesse pubblico. Fermiamoci qua, grazie Marco Gui dell'Università Milano Bicocca, che sta conducendo analisi, studi sul consumo consapevole dei media. Abbiamo ancora un ascoltatore che ci chiama all'800 24 00 24, Tino da Forlì. Buongiorno Tino. Salve, buongiorno. Buongiorno. Su cosa ci chiamava? No, la chiamavo in riferimento all'intervento che ho sentito poc'anzi sul discorso del pane del giorno prima. Siccome mi occupo di pane, sono imprenditore nel settore del pane, quindi panettiere e quant'altro. E no, sinceramente mi è dispiaciuto sentire un collega che come grande idea ha trovato quella di vendere il giorno dopo il pane avanzato il giorno prima. Al 50% di sconto però, perché non le piace questa idea? Non mi piace questa idea perché questa pratica, non un'idea, questa cosa, sì. Ho fatto una scelta di fare un certo tipo di produzione, ok? Quindi hai dovuto sostenere dei costi, hai dovuto sostenere tutto quello che è di bello dobbiamo sostenere tutti i giorni. Allora io dico, gli avanzi della sera, intanto noi lavoriamo su 14 punti vendita e li diamo alla Caritas. Non dobbiamo Lei però è titolare di una grande attività, perché 14 punti vendita sono tanti, qui parlavamo di un forno singolo, forse sono casi anche diversi. Comunque sì. Concluda, Tino. Concludo, sì. Secondo me valeva più la pena studiare un pane che avesse un costo per il pubblico più accettabile e comunque nella filosofia del pane fresco darlo fresco il giorno dopo. Va bene, ognuno segue le strategie che crede. Grazie Tino, grazie. Fermiamoci qua. 800 24 00 24, questo era Tino, adesso forse sentiamo anche qualcun altro, adesso però intanto ci fermiamo per il traffico. Eccoci qua, ben ritrovati. Cercateci su Facebook, si può fare Radio 24, su Twitter si può fare 24 e poi sul sito, ve l'ho già detto, si comincia da questa settimana un concorsone, si vincono anche dei premi. Trovate tutto sulla pagina di si può fare sul sito di Radio 24. Adesso andiamo a abbiamo un altro ascoltatore, Francesca da Biella. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno, ho ascoltato la sua trasmissione, sì. Ovviamente ho seguito anche la trasmissione di Santoro e di Berlusconi. Io trovo che sia stato penoso che in una trasmissione pubblicizzata in quel modo, da cui si aspettavano tutti delle idee, delle prospettive eccetera, sia diventato solo uno show. Ma di questo è anche la colpa di Santoro. Santoro, certo, sapeva a cosa andava incontro. Questo è verissimo. Sapeva che avrebbero chiesto a Travaglio tutte quelle, avrebbero fatto rilevare a Travaglio tutte quelle condanne. Lui ha giocato assolutamente sulla sua popolarità, è aumentata la popolarità di Santoro, è aumentata ovviamente la popolarità di Berlusconi. La colpa è anche di Santoro. Non è stata una trasmissione, è stato uno show. E tra l'altro devo dire, grazie Francesca, che l'unico momento in cui la trasmissione stava per avere un cambio di passo è stato quando Gianni Dragone, tra l'altro collega del Sole 24 Ore, Dragoni, ha fatto un paio di domande a Berlusconi sulle sue aziende, sul progresso, il titolo in borsa da quando è sceso di nuovo in campo, e lì stava cambiando di passo la trasmissione perché stavano facendo delle domande concrete a cui Berlusconi poteva rispondere. Peccato che quel momento è durato troppo poco e non ha preso piede, altrimenti la trasmissione sarebbe diventata quello che noi forse auspicavamo da quando ne parliamo questa mattina, cioè una trasmissione sui contenuti. Adesso andiamo per spezzare a sentire la notizia Si può fare nel mondo che siamo andati a scovare questa settimana. And the winner is... Il primo premio del 2013 va nel Regno Unito, all'intero villaggio di Itteringham, nel Norfolk, dove la mobilitazione volontaria dei cittadini sta mantenendo in vita il più antico negozio del paese. Si tratta di un piccolo alimentari che quest'anno spegnerà 376 candeline. Anno di apertura 1637. È appartenuto per secoli alla famiglia Fairhead. Quando, alla fine degli anni 90, il vecchio Brian morì, il villaggio decise di acquisire il negozio. L'intera comunità ne divenne la proprietaria e al contempo la miglior cliente. In più di tre secoli il negozio ha assistito al succedersi di 16 sovrani, alla rivoluzione industriale e a due guerre mondiali. Ma la crisi economica odierna è la sfida più dura. La concorrenza della grande distribuzione è agguerrita, ma i cittadini di Itteringham tengono botta. Non hanno abbandonato la nave e si sono rimboccati le maniche. 50 dei 120 abitanti, a turno, hanno iniziato a lavorare gratuitamente in negozio, risparmiando così 350 sterline a settimana e raggiungendo il pareggio di bilancio. Il segreto per sopravvivere consiste nel vendere prodotti locali, a chilometri zero, insieme a oggetti quotidiani che servono alla gente del posto. Un modello di business semplice, ma che funziona. Il negozio di Itteringham non sarà il più fornito del Regno Unito, ma di certo è il più resistente. Sopravvivere alla crisi insieme si può fare. E salutiamo il nostro prossimo ospite, che è Alberto Cozzi, presidente, uno dei fondatori, anzi, del Circolo Parmense del Film Brutto. Alberto. Buongiorno a tutti. Hai sentito che abbiamo parlato anche della trasmissione di Santoro con Berlusconi e sì, della spettacolarizzazione. Voi siete talmente consapevoli che soddisfate la vostra bisogno di trash andando a vedere i film brutti. Voi l'avete visto il Santoro Berlusconi l'altra sera? Sì, ho intervisto, visto qualcosa, ma non sono riuscito neanch'io da esperto a reggere tutta la trasmissione. A reggere? Diciamo. Era troppo. Sì. Cioè, da esperto di trash era troppo. Sì, era a volte anche troppo per noi. L'avete visto in gruppo o eravate ognuno a casa vostra in questa occasione? No, in questa occasione era ognuno a casa sua, diciamo. Cioè, perché vi riunite solo per vedere i film brutti. Per esempio, quali film? Beh, di esempi ce ne sono tanti, ci sono, diciamo, i classici must del genere. Non so, per fare qualche nome, Il Carnosauro, Zombie 2 di Lucio Fulci, L'abominevole dottor Fibes, diciamo che si spazia molto come genere. Anche Alex L'Ariete, per esempio? Alex L'Ariete, allora, è un... cos'è Alex L'Ariete? Diciamolo per chi non fosse un cultore della materia. Alex L'Ariete è il primo e, diciamo, unico film di Alberto Tomba e Michel Hunziker, che purtroppo è stato un fiasco al cinema, quindi poi non c'è stato più nessun seguito. Si voleva fare anche un seguito. Purtroppo, perché voi assetate di trash, l'avreste visto il 2, il 3, il 4, tutti. Faccio un appello, infatti, Alberto Tomba, se vuole continuare, noi siamo contenti. Almeno voi di Parma, non so quanti siete, tra l'altro, nel club? Allora, nel come membri attivi, diciamo, che si ritrovano ogni settimana, più o meno una quindicina per il momento. Insomma, non è poco. Sentiamo allora un pezzettino di Tomba e Michel Hunziker. Alex L'Ariete. Dunque Antavleva Botassi è una donna? Sì, sono io. E sono una donna. O di chi cazzo sei? Sono il carabiniere che ti deve accompagnare. Ecco chi sono. Voltati. Accompagnare? Ma dove? Dimostrami che sei un carabiniere. Sì, la pistola, le manette, e i documenti che ti riguardano, come un carabiniere, va bene? Scusami, pensavo fossi venuto per ammazzarmi. Non ho detto che non lo faccia, prova a colpirmi ancora e vedrai. T'ho chiesto scusa, che vuoi di più, eh? Una dichiarazione d'amore? Fai uno sforzo per essere così simpatica o ti viene spontaneo? No ragazzi, ma chi ha fatto questo film aveva veramente la testa da un'altra parte, oppure è un genio. D'altra parte, da Tomba credo che non si possa tirare fuori molto di più di questo. Quando tra l'altro, sì, tra l'altro questo film è stato girato da un regista che è Damiano Damiani, che era un regista di un certo rispetto. Ecco, ma secondo me è stato che quando Tomba ha smesso di sciare, visto che aveva comunque questa presenza telegenica, si è cominciato subito a dire farà l'attore, dimenticandosi che per fare l'attore bisogna avere almeno due espressioni, col cappello, senza cappello, diceva Sergio Leone di Clint Eastwood, ma lui non ha neanche quella col cappello, forse. Sì, purtroppo poi anche diciamo il suo accento bolognese non lo aiuta. A me però interessa capire perché voi avete deciso di riunirvi per vedere i film brutti. Sì, questa diciamo è la domanda principale che mi fanno sempre, perché giustamente uno dice ci sono tanti film belli in giro, come mai i film brutti? Diciamo che i motivi principali sono tre, di cui uno, il principale ovviamente è il fattore divertimento, come si può intuire. Cioè, diciamo che questi film con situazioni, dialoghi, personaggi così assurdi, così esasperati, ovviamente strappano grandi risate da nostra parte. Poi ci sono anche altre motivazioni, diciamo un po' più nascoste, ecco, magari non visibili subito. Oddio, per esempio? Ad esempio, una motivazione può essere una riflessione anche, adesso senza spararle grosse, sul cinema, sì. Ad esempio come fanno anche certi film di Rodriguez, di Tarantino, che spesso ha citato di essere molto appassionato di un certo cinema di serie B anche italiano anni 70, quindi diciamo una riflessione anche sugli stereotipi, sui cliché dei grandi film, che lì sono talmente portati all'eccesso che diventano grotteschi, divertenti insomma. E poi a volte anche su certi film, devo dire anche spesso c'è una specie anche di fattore sociale, un po' di critica sociale, ad esempio nel Vendicatore Tossico della Troma c'era un... Cosa? Il chi? Vendicatore Tossico, è un film della Troma che è una casa statunitense. Che è specializzata, Vendicatore diciamo... Tossico è inquietante come titolo. Sì, ma comunque sì, comunque c'è... più o meno visibile, un messaggio ecologista, un messaggio anche di accettazione del diverso, ecco, che in questi film che sono appunto diversi dagli altri, magari cioè, è anche più sentito. Mm. Però insomma, la questione di nobilitare i film brutti dicendo che Tarantino è un cultore del trash sicuramente va benissimo ed è comprensibile, ci sono sicuramente degli esperimenti di cinema magari falliti, però interessanti per gli amanti, tra i film diciamo che non hanno avuto grande successo. Però diciamocelo, io credo che voi al fine facciate conti anche con la vostra parte masochistica, no? Mettendovi lì di fronte a un film brutto, perché uno lo guarda per due minuti poi molla, invece voi li guardate tutti. Sicuramente c'è anche la sfida, diciamo che certi film non sono per tutti palati e a volte è anche difficile arrivare in fondo. E infatti anche per questo li guardiamo insieme, guardarli da soli diventa ancora più difficile, diciamo. Quindi suggerite, che ne so, di assistere a certi spettacoli televisivi un po' trash, sarebbe meglio vederli in gruppo, così si commentano, ci si ride e si subisce di meno anche il trash, no? Se si può commentare, si alleggerisce. Diciamo che anche una delle parti belle sono i commenti che si fanno al film. Ecco. Il prossimo film che vi riunite per vedere? Noi siamo molto democratici, abbiamo sempre una lista di 5-6 film, ogni volta votiamo e decidiamo sul momento. Va bene, grazie anche ad Alberto Cozzi del Circolo Parmense. Il film è brutto, oggi abbiamo parlato anche di questo, del trash in TV, o al contrario dell'uso consapevole dei mezzi di informazione. È finita anche per oggi, io ringrazio Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Giorgio De Luca in assistenza oggi in redazione in diretta. Che dire, ci sentiamo domani e poi andate sul sito per il concorso. Buona giornata, buon sabato e buona domenica.